Europa 24. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchesi. L'Unione Europea interviene sullo scandalo Volkswagen. Quello che è veramente necessario era avere una fotografia chiara della situazione di quanti veicoli ci sono in Europa con il software ingannevole di Volkswagen. Così ha parlato la portavoce della Commissione Europea per il mercato interno, ricordando che la questione verrà discussa nell'incontro imminente a Bruxelles con le autorità nazionali di omologazione. Stati fatti passi in avanti dell'Unione Europea sull'immigrazione, hotspot attivi entro novembre, stop al caos alle frontiere esterne. Sotto pressione per l'arrivo di migliaia di migranti, la Croazia chiude tutti i valichi di frontiera con la Serbia. Tra i due paesi si segnalano sempre più frequenti momenti di tensione, mentre oltre 10.000 persone sono entrate in Ungheria, provenendo soprattutto dalla Croazia. Un flusso che non si arresta e che il vertice straordinario europeo tenta almeno di gestire. Un incontro che si è concluso a notte fonde, che di fatto ha portato a casa punti certi, hotspot attivi entro novembre, redistribuzione dei richiedenti asilo e 1 miliardo di euro per sostenere le agenzie dell'ONU per attivi a sostegno dei profughi. Una notte importante per l'Italia, ha detto il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Quando dicevamo che questa questione riguardava tutti, ci guardavano male, ci dicevano no, questo è un problema italiano, no, c'è un accordo e va rispettato. Gestire il flusso significa anche aiutare i paesi dove i rifugiati già sono, come Turchia, Giordania e Libano, in modo che questi restino più vicini al loro paese piuttosto che venire sino qui in Europa. Questo quanto sottolineato dal presidente francese Hollande mentre spiegava ai cronisti la decisione dei 28 di sostenere i paesi più esposti alle crisi di Iraq e Siria. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk parla di momento simbolico perché dice l'ondata più grande di profughi deve ancora arrivare ed è chiaro a tutti che non possiamo continuare come prima con porte e finestre aperte, e si pensa così alla creazione di guardie di frontiera europee, un punto che permette al premier ungherese Orban, che sentiamo, ad accettare l'accordo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I confini devono restare aperti e la loro chiusura non è in alcun modo la risposta alla crisi dei migranti. Così il rappresentante europeo in Serbia, Davenport, ha ricordato oggi la posizione analoga espressa nelle ultime ore dall'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini e dal commissario europeo all'allargamento Hahn. Per Davenport la libera circolazione di merci e persone è uno dei principi e diritti fondamentali sui quali si fonda l'Unione Europea. Si parlerà naturalmente di migranti e non solo. Questa sera alle 20 nella sede del Ministero degli Esteri francese a Parigi, con la riunione del ministro Laurent Fabius, con i colleghi di Germania, Gran Bretagna, insieme appunto all'alto rappresentante della politica estera europea Federica Mogherini. Il Tribunale dell'Unione Europea ha accolto il ricorso di Italia e Spagna, ha annullato dunque 3 bandi di concorso pubblicati dall'Ufficio Europeo di Selezione del Personale, EPSO, che obbligano i candidati a scegliere il francese, l'inglese o il tedesco come seconda lingua oppure come lingua di comunicazione con l'EPSO. Italia e Spagna sostenevano invece che i bandi sono discriminatori e che violano il regime linguistico dell'Unione, contestando l'obbligo imposto ai candidati di scegliere il francese, l'inglese o il tedesco non soltanto come lingua di comunicazione con l'EPSO, ma anche come seconda lingua per tutti i concorsi. 14 minuti 26 secondi, Europa 24 torna questa sera all'interno di Effetto Notte. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.